addio, consorte, a me gemini e spento, vai, consorte sarò del monumento. Fermati, il padre, io reggo il mio voler, le tue promesse, è giusto, con chi pone tacatene usare l'inganno, quanto a mie piaghe accende.